Una grande calma aveva invaso la madre di Emanuela. Sembrava non soffrire. Viveva come prima, come se nulla fosse accaduto. Parlava del marito senza commuoversi, quasi fosse ancora vivo. Solamente diceva il povero Bepi. Emanuela spesso le domandava: Mamma, e che diceva? Che diceva di me il papà? E sempre diceva: Bisogna che Emanuela parli a quel ragazzo. Se tu fossi arrivata in tempo te lo avrebbe detto. Quella sera, quando già non parlava più, pareva tuttavia dirmelo con gli occhi, povero Beppi, guardando la tua fotografia. Sì, mamma, lo farò subito, è la volontà di papà. Forse adesso papà, di lassù, capirebbe perché ella non l'avesse ancora fatto. Tante volte aveva tentato, anche pochi giorni prima. Quando Stefani era voluto uscire per forza con lei in carrozza, per la prima volta dopo la scarlattina, ed ella, temendo di essere stata vista da Andrea, aveva deciso di parlare, di farla finita con quella bugia. Ma egli le era andato incontro, sorridendo, le aveva detto: Sai che cosa ho fatto? Indovina, ho comperato un frigider. Un frigider? Ella aveva esclamato. Ma sì, per la nostra casa. Non è la cosa più utile, dirai tu. Meglio la camera da letto o la batteria di cucina. Sì, lo so, avresti ragione di dirlo, ma era molto bello. E poi ti dirò, è venuto a propormelo un mio amico, un caro vecchio amico che fa la fame. Lui, la moglie e due figli, due gemelli, figurati. È anche molto bello, sai? T'assicuro, fa il ghiaccio tutto a cubettini. Ah, non mi guardare così, Emanuela, l'ho avuto a rate. E rideva. Come dirglielo dopo questo? Altra volta, sì, quella volta era stato penosissimo. Lei aveva cominciato così: Ti piacciono i bambini? E lui aveva risposto duramente: Li detesto. Mi piacciono soltanto quando piangono, perché allora li portano via. Adesso ad ogni costo avrebbe parlato. Ma prima, pensava malignamente, avrebbe fatto capire ad Andrea quanto era cospicua l'eredità del babbo. Dopo, ecco. Non sapeva come cominciare, tutto lì, le prime parole. E poi le cose vanno da sole. Si sentiva vincolata da innumerosi legami, perseguitata da un destino avverso. La morte di Stefano, la bambina e tante altre ragazze fanno le stesse cose senza gravi conseguenze. Tutto era sempre stato contro di lei. Forse il suo carattere, con quel rinascere continuo di speranze e di entusiasmi, era la prima cosa che aveva contro di sé. Altre. Silvia aveva detto, si fanno portare dal vento. Ora, ecco, il vento l'aveva portata fin qui, bisognava decidersi, agire. Temeva che Andrea l'abbandonasse, che non volesse sposare una donna con un passato. Aveva udito spesso questa frase quando era più giovane, una donna con un passato, ed ella si figurava una donna formosa e matura, con un gran cappello guarnito di piuma fine 800. La donna con un passato non poteva essere lei. 25 anni, tacchi bassi, pensionante dell'Istituto Grimaldi, eppure era così. Nulla può distruggere, annientare un passato. Tu accuratamente lo nascondi, lo occulti, nessuno ha visto, nessuno ha saputo, fuorché te stessa, e tu non parlerai mai. E invece, seguita a vivere il passato. E ti vincola e ti nega il futuro e tu stessa finirai per parlare un giorno. Lo risolleverai, lo scuoterai dalla polvere. Eccolo il tuo passato. E ti accorgerai che è vivo, che sei venuta costruendo la tua vita su quello come una farfalla e il bozzolo. Chi lo dimentica? Nessuno può dimenticarlo. Forse il passato è la sola cosa veramente immortale. Perché l'ho fatto? Emanuela si chiedeva. In fondo non era stata molto innamorata di Stefano e i sensi si dovrebbero vincere. Sembra, almeno a distanza, che si possano vincere. Il passato, appunto perché già passato, appare semplice, piano. Eppure soltanto dopo averle vissute si giudicano e si pesano esattamente le cose. Domani, quest'ora di oggi, sarà il passato. Bisognerebbe sempre essere sicuri di non rimproverarselo. Adesso bisogna tornare a Roma e dire: Senti, Andrea, scriveglielo. Ecco, aveva trovato, più facile, molto più facile scriveglielo. S'alzò per prendere la carta, farlo subito, ma no, così egli rileggerebbe tante volte la lettera e la cosa ingigantirebbe attraverso le stesse parole di lei. Bisognava dirlo come una cosa semplice e sì, poi alla perduta mi lascerà. Ma non voleva che la lasciasse. C'era sempre in lei un sentimento indefinito che le faceva desiderare a volte la pace, a volte la spingeva a sfuggirla, a liberarsi dalla monotonia. Si fabbricava a fatica un affetto, una certezza, ma non aveva forza abbastanza per trattenerlo, se lo lasciava sfuggire di mano e dopo neppure se ne disperava. Constatava soltanto la desolata vacuità della sua esistenza senza porto, senza aspirazioni. Nulla di quanto aveva vissuto l'aveva soddisfatta. Cambiava per trovare qualcosa che la soddisfacesse, ma la scontentezza era in lei, insieme a una profonda nostalgia di darsi tutta agli altri, patire per gli altri, sacrificare la propria esistenza per il benessere di qualcuno. Adesso andava costruendo un mito attorno alla figura di suo padre, ne parlava a bassa voce, a occhi sgranati, con venerazione. Finché era vivo, buongiorno, buonasera. E ciò che le dava inquietudine era l'inconsapevole certezza di non aver ancora scoperto nulla di sé, l'attesa di questa rivelazione. Firenze le era divenuta insopportabile, la casa senza il papà, mamma teneva sempre le persiane chiuse, la luce bassa, si era ripiegata su se stessa, la si udiva certe volte parlare ad alta voce nelle sue camere, da sola. Il freddo e il silenzio invadevano la villetta. Forse Manuela avrebbe dovuto restare vicino a mamma, ma si erano sempre capite così poco. Lei era nata quando la madre era già anziana, c'era tra di loro una inevitabile distanza di idee, o forse era vecchia soltanto perché era la mamma. Stefania aveva chiesto ad Emanuela un giorno: "Mamma, mostrami qualche tua fotografia di quando eri giovane." Emanuela aveva riso mentre la bambina la guardava seria, senza comprendere quell'improvvisa ilarità. Più tardi Emanuela capì che la figlia aveva ragione. Le madri hanno un'età unica. Non ci sono madri giovani, madri vecchie, madri belle o brutte. Ci sono le madri. Adesso mamma sarebbe rimasta proprio sola. Bisognava almeno offrirle di restare. Emanuela glielo disse a tavola, interrompendo il silenzio di quei loro tristi desinari, senza neppure guardarla, cercando col cucchiaio le stelline della minestra e vedendo il proprio viso riflesso nel brodo ondeggiare, pieno d'ombre nel fondo della scodella. Mamma, vuoi che rimanga con te? La madre, crollando la testa, rispose: No, ti ringrazio, figlia mia. Ma sì, rimango, sei sola, ormai non siamo più che io e te. E di nuovo la madre ebbe un cenno di diniego. No, fece. Sono stata sempre sola. Tu non sei mai stata proprio mia. Se ti facevi male anche da bambina, andavi da tuo padre. Non so perché questo. È stata la più grande pena della mia vita. Ho patito tanto. Quando te ne sei andata, per me è stato come la prova generale della morte. E adesso che mi sono abituata, voglio restare sola. Davvero. La mamma dunque aveva sempre capito, aveva tenuto segreto in sé un pensiero fisso. La sua vita sembrava essere soltanto nelle mani che facevano interminabili lavori a maglia nell'ombra del giardino. E nessuno aveva mai sospettato che invece covasse quel suo cruccio, lei sempre così docile, sempre pronta ad accorrere e a giovare agli altri. Emanuela la guardò per scoprirla in questo nuovo aspetto coraggioso. Ma la mamma aveva chinato di nuovo la testa sul piatto e di lei si vedeva solo la testa grigia con la scriminatura rada dei capelli sulla pelle bianca e lucida. Xenia giunse di sera a Nizza pilotando lei stessa l'automobile. Disse il suo nome al portiere: Oh, ben arrivata, baronessa. Dietro di lei salirono numerosi bagagli. Va bene la camera? Benissimo. Appena fu sola, Xenia provò un senso di sollievo, di riposo. Lungo e faticoso il viaggio. La tensione tesa dalla strada tutta curve e la lunga sosta alla frontiera, quell'orrido del Ponte San Luigi dove dall'altra parte non era più Italia. Dalla finestra si vedeva illuminato il lungo viale di palme, qualche lume c'era sul mare. Xenia, stanca, si sedette sull'orlo del letto, presa dalla gioia di abitare una camera tutta sua. Ogni cosa le piaceva, anche i tendaggi sbiaditi, perché era sola e tranquilla. Fece colare l'acqua nella vasca da bagno, poi trasse da una valigia gli oggetti per la notte, gli oggetti da toeletta. Erano oggetti assai belli, davano piacere a toccarli. Guardò le altre valigie chiuse e mentalmente rivide quello che contenevano. Soddisfatta, strinse le mani l'una contro l'altra, golosamente. Oltre la porta si udivano passi sul tappeto del corridoio. Gente scendeva le scale. Nessuno poteva fermarsi a bussare. Nessuno la conosceva e questo pensiero faceva fluire in lei una gran pace. Niente di più tonificante che un bel bagno caldo quando si è stanchi. Xenia, beata, guardava il breve laghetto azzurro immobile. Sorrideva senza ragione, sorrideva guardandosi nello specchio, gli occhi neri erano stellanti. Gettò nell'acqua una pallina verde che si sciolse espandendo un grato odore di spigo. Aspirò forte, poi immerse la mano colma d'acqua, la risollevò e l'odorò e di nuovo sorrise. Piano mise i piedi nell'acqua e nuda si sedette sull'orlo della vasca e poi agitò piano le gambe, indolentemente come fanno i bambini. Le pareva che tutta la sua felicità, il suo benessere, potesse essere racchiuso in quell'ingenuo gesto di muovere i piedi di qua e di là e lasciar cadere le gocciole, vedere le unghie rosse trasparire nell'acqua sul fondo della vasca, sotto l'acqua verde azzurra. Tanti anni fa. Quanti anni? Andava a mettere i piedi così nell'acqua del torrentello che scorreva al limite dell'oliveto. Xenia vi entrava cauta, tirando su la vestina di frustagno e passeggiava guardando giù. C'erano sul fondo ciottoli bianchi e puliti, ma l'acqua era gelida ed ella poco dopo era costretta ad uscire fuori perché la pelle delle caviglie le formicolava per il freddo. Una volta sull'orlo del campo confinante s'affacciò un'altra bambina della sua età e prese a guardarla con occhi incantati. Lei allora si ribellò. «Perché mi guardi? Va via!» Ma quella timida disse: Voglio fare come te. Xenia, dopo averla considerata, rispose sprezzante: Non ti divertiresti. L'altra aveva gambe tozze e scure. Xenia adesso pensava: Forse un'altra non sarebbe felice come me per un bagno. Cos'è in fondo un bagno? E cos'era quel torrentello? Si lasciò scivolare in ginocchio, poi con un brivido si stese. Perché in questo periodo pensava così spesso a quando era bambina? Ricordava sempre che da piccola certe volte dubitava di esistere. Vivo? Si chiedeva. Vivo davvero? E toccava un oggetto per essere sicura che quella sensazione del tatto fosse sua. Si meravigliava di poter vedere le cose e finalmente tossiva o diceva ad alta voce il suo nome. Xenia. Per udirsi. Esistere, o meglio, averne la coscienza, le sembrava miracoloso. Tale pensiero a vicenda l'ossessionava o la inebriava, questo fino a 12 o 13 anni, poi non vi pensò più. E adesso tornava di nuovo. Era proprio lei, Xenia Costantini, immersa in quel bagno profumato nel più grande albergo di Nizza. Era sua quella macchina in garage, la più bella macchina di Milano. A lei le sartorie più eleganti avevano mandato scatole di vestiti, suo quel titolo che ormai pareva vero, Baronessa Costantini? Cose che si leggono nei romanzi. Alcune volte, leggendo, nel prato incontro alla casa dove sventolava quel gruppo di pioppi bianchi, pensava che a lei certe cose non sarebbero capitate mai finché fosse rimasta chiusa in quel paese, e tuttavia era sicura del suo avvenire. Si sente nel petto un destino straordinario, pesa di più. Ogni cosa le riusciva facile. Studiava poco ed era la prima sempre, senza sforzo. Appena fu adolescente, s'accorse che tutti gli uomini la guardavano. Guardavano lei, anche se era in compagnia di altre sue amiche più compiutamente belle. Dopo le prolungate soste in lettura, rientrava esaltata, accesa. Era ciò che sua madre chiamava montarsi la testa con i libri. A casa le cose andavano sempre peggio. A volte non c'erano neppure i soldi per comprarsi le scarpe. Fu lei un giorno a decidere: così non si va avanti, voglio lavorare. Papà e mamma si guardarono, ma ella era risoluta. Aveva finito il liceo, sarebbe entrata in università. Misero l'ipoteca sulla vigna e si decise che papà non avrebbe più fumato, mamma avrebbe risparmiato sulla spesa e partì. Adesso, chiudendo gli occhi, pensava a quante amiche al paese avevano sposato uomini di laggiù che andavano all'osteria la sera, stanche rincasavano, le prendevano assonnate e ogni 9 mesi un figliolo. Aprì gli occhi per guardarsi il ventre liscio e bianco. L'acqua ondulava attorno a lei. Da bambina si lavava con l'acqua fredda in una catinella di zinco. Forse, certe volte, per timore del freddo, restava anche un po' sporca. Sì, restava anche un po' sporca. Rise a questo pensiero e fece schizzare l'acqua coi piedi. Grondante, s'alzò e tese le braccia in alto con infinita soddisfazione. Si stese nel letto, ghiottamente. Questa era la più bella sua sera, la prima sera di vera felicità. Se un uomo fosse entrato nella stanza, il miglior uomo del mondo, e avesse voluto baciarla, ne sarebbe rimasta profondamente annoiata. Vi sono donne fatte per vivere in due, altre per vivere sole. A lei, di tutti i piaceri, questo solo pareva delizia ineffabile, godere di se stessa, della sua propria compagnia, della sua immagine. Niente poteva soddisfarla di più. Ci sono donne che farebbero pazzie per un uomo. Oh no, no, per carità, distruggere il proprio benessere, la propria calma per un uomo? Gli uomini sono piacevoli quando si accontentano di alcune ore della giornata, ma un uomo invece invade la vita di una donna dal mattino alla sera. Come dire ad un uomo: non posso stare con te oggi, vorrei leggere questo libro. È un piacere spesso superiore ad ogni conversazione. Leggi, leggi pure. E gli risponde: io sto qui, ti aspetto. Ma l'essere vincolata a quell'attesa distrugge anche la gioia del pensiero. Lui solo si serba una via d'uscita. Si chiude nel proprio studio, dice: adesso io lavoro. E spesso proprio in un momento nel quale la donna, che so, avrebbe voglia di chiacchierare. Come possono vivere in armonia due egoismi? Xenia riconosceva di non possedere in fondo nessuno spirito d'avventura. Ne aveva avuto finché era necessario per conquistarsi la possibilità di dormire in un letto morbido, sotto un copripiedi di piuma, avere attorno un immobile silenzio vegliato dalla lampada che spande tanto di luce che basti a illuminare il libro aperto. E ora, che aveva finalmente ottenuto tutto questo, anche ciò che d'avvilente era nella sua avventura, le parve giustificato. Ma non poteva leggere. Il benessere fisico sommerge i gesti, anche i pensieri. Abbassò le braccia sulle lenzuola, un fresco benefico le salì fino ai gomiti, poi strofinò i piedi l'uno contro l'altro e chiuse gli occhi. Certa gente pensa che la felicità venga soltanto dall'amore. Ella era profondamente felice, eppure non si era mai innamorata. Dino, Dio, Dio, povero Dino, tra un mese andrà la causa. Sì. Xenia riconosceva, ella non era mai stata innamorata che di se stessa. Il sonno sarebbe sopraggiunto come uno sfinimento. Lei non avrebbe mai avuto la forza di alzare il braccio per spegnere la luce. L'avrebbe presa così, distesa, il libro tra le mani. Sì, veramente tutto ciò che aveva patito scompariva di fronte a quel solitario benessere. Tutto, pensò. Poi, improvvisamente, sotto le palpebre abbassate, gli occhi le si allagarono di pianto. No, tutto no, non tutto. A Milano c'era Horsch. Horsch, tanto preso di lei, era un uomo piacevolissimo e lei gli doveva tutto: la macchina, il conto in banca, il brillante, i vestiti, la villa che aveva affittato, tutto, anche il passato, il titolo e quell'alone di donna perbene che egli aveva saputo creare attorno a lei. Ma poi c'era la notte, erano quelle ore notturne che la terrorizzavano. Ormai ogni sera uscivano insieme, si diceva a Milano, Horsch e la baronessa, come una sola persona. Xenia sapeva tutto dei piccoli e dei grossi affari, egli non agiva mai senza domandarle consiglio. Gli affari di Raimondo erano ormai affari comuni di loro due. Due sere alla settimana Horsch restava con lei e fin dal mattino Xenia cominciava a inorridire per quel momento. Neppure i vestiti e la macchina dissipavano il suo malumore. L'affettuosa amicizia che aveva per lui si tramutava. Cominciava a odiarlo da quando chiudeva la porta della camera dietro di loro. Le mani di lui, i suoi gesti calmi, quell'adorazione sottomessa che era nel suo modo di guardarla, l'inorridivano. Al buio, mentre egli la cercava, gli occhi le si dilatavano per l'orrore e avrebbe voluto gridare. Tutto dentro di lei gridava ed era strano che non s'udisse quell'urlo disumano che si strappava in lei di repulsione. Dopo, egli dormiva e lei si teneva discosta, sveglia, temendo che nel sonno quel disgusto la cogliesse di nuovo in un incubo. Desta, immobile, vedeva nascere le prime luci. Egli la lasciava presto al mattino, le faceva una carezza sulla fronte, la baciava castamente sui capelli. Sorridendo stanca, come dopo una lunga malattia, lei lo salutava affettuosamente. Ciao, Raimondo! E chiudeva gli occhi e si sentiva alleviata in convalescenza e si lasciava prendere da quell'ineffabile benessere della solitudine e s'addormentava serena. Serena come ora, con sulla gota una lacrima che asciugandosi aveva formato una macchia tonda e opaca. Nei giorni che seguirono, Xenia si divertì a scoprire le novità di quella vita. Provava una dolce e lieve storditezza a passeggiare nelle strade tiepide di sole dopo il brumoso inverno a Milano. Era divertente essere all'estero, sola, parlare francese, ritrovare facilmente le parole. Comperava molti oggetti, si illudeva che fossero a buon mercato, un'occasione. Al mattino si svegliava con entusiasmo, decideva accortamente il programma della giornata, poteva fare quello che desiderava, era libera. Dopo poco poteva cambiare idea se voleva, le giornate erano sempre troppo corte per tutto quello che aveva voglia di fare. Di sera andava a teatro da sola. Rientrava a piedi in albergo, ogni gesto, poiché non dipendeva che dalla sua volontà, le appariva colmo di fascino. Finalmente, stando sdraiata sul balcone, poteva contemplare a lungo il mare. Si disegnava in cielo un esile quarto di luna, come quando era bambina, Xenia godeva nell'abbandonarsi alla consapevolezza di esistere. Dopo pochi giorni aveva contratto alcune amicizie, una signora olandese, matura e ancora bella, con due figliole da marito, due figliole strabiche, bei corpi, bei capelli, bei denti, ma gli occhi storti e quella disorientante tristezza degli strabici. Vederle accanto raddoppiava la sciagura. Era come se ognuna di loro avesse quattro occhi storti. La madre invece aveva occhi celesti, pieni di rattenuta inquietudine, ella camminava sempre un passo avanti e le figlie la seguivano guardando in quel loro mondo strampalato. Invitavano molta gente in albergo, molti uomini, giovani, ma quelli invece si mettevano a corteggiare la madre. E lei finiva col cedere, forse spinta dal sentimento di fare quello che poteva per irretire un buon partito alle figliole, le quali facilmente si sottomettevano a quella superstite prepotenza di gioventù. Però il senso del dovere presto ritornava alla madre che, pentita, lasciava subito andare il nuovo amante. Le ragazze, poco dopo che Xenia era arrivata in albergo, l'invitarono di lontano con sorrisi. Quando la conobbero, la circondarono di affetto. Erano due creature adorabili. Xenia aveva poco più della loro età, così giovane, già vedova. Per confortarla le carezzavano le mani, povera baronessa. Quel difetto fisico, invece di renderle maligne, le rendeva angeliche. Correvano incontro a Xenia e la prendevano sotto braccio, una di qua e una di là, facendole le feste come due cagnolini. E Xenia godeva della loro spontanea sottomissione. Le tre olandesi abitavano a Nizza 4 mesi all'anno. La madre giocava al bridge, le figlie giocavano a tennis e fu con loro che Xenia conobbe Maurice. Maurice Delange. Aveva 27 anni ed era campione di Francia di tennis. Xenia, sapendo questo, Lo guardò con aria di compatimento, come si può credere di aver raggiunto qualcosa nella vita per il fatto che si è tirata con più abilità degli altri una palla di gomma di là da una rete. Perciò dapprima lo giudicò fatuo e di limitata intelligenza, parlò con lui appena per educazione, ma alla fine della serata aveva dimenticato che gli era anche campione di tennis e pensava solamente che era un ragazzo molto intelligente. Maurice parlava di argomenti profondi con aria infantile, sembrava che discutesse di cose superiori e inadatte alla sua età. Il suo viso non era proprio bello, aveva occhi neri e scavati che vibravano di luce calda, non era molto alto, ma aveva il corpo agile e svelto. Dissimile agli altri giovani della sua età, non ballava mai, parlava poco di sé e della sua destrezza e usava un tono moderato di voce. Non faceva nulla tutto l'anno. Viaggiava. E i viaggi erano per lui una vera occupazione intellettuale. Ne discorreva con spirito acuto che dava rilievo e colore alle cose vedute. Xenia in principio gli parlò di tennis, credendo che quello fosse per lui l'unico argomento interessante. Egli rispose senza spavalderia. Trovava lo sport ottimo per la salute e si faceva perdonare facilmente di essere più bravo degli altri. Poi egli cominciò a parlare dell'Italia e degli italiani. Era, ella pensò, il solo francese che parlando di un popolo straniero non tingesse le sue parole di condiscendenza e di ironia. Non conosceva i bar degli alberghi di Roma, né esaltava le canzonette napoletane. Parlò invece dell'antica pittura italiana. E alla fine spiegò, dipingo. Disse questo con semplicità, giocando con le mani per far intendere che la sua arte non valeva gran cosa, appena un passatempo, eppure per un rossore che gli salì alla fronte, Xenia capì che quella sola cosa veramente lo interessava. Maurice Delange, che qualche volta giocava al tennis con le ragazze olandesi, andava a trovarle all'albergo di sera, si sedeva e ascoltava ciò che gli altri dicevano, spesso senza interloquire. Da quando Xenia era nel gruppo, egli sempre cercava di sedersi accanto a lei. Se il posto era occupato, se lo conquistava poco a poco con una sorta di astuta tenacia. Di buon'ora le due ragazze salivano a coricarsi, salutavano la compagnia, le vecchie dame con un inchino, abbracciavano Xenia con effusione. La madre restava a giocare al bridge. I giovani si mettevano a ballare, allora Maurice sembrava svegliarsi, s'animava, parlava con Xenia, la incitava a raccontare. Una sera lei andò al teatro e lui il giorno dopo le fece: «Non vi ho trovata ieri sera». Poi sorrise impacciato e la ragazza pensò che non sarebbe andata più al teatro.